La la la la. La la la. Forza! Non c'è più tempo da perdere! Andiamo! Quello è il terreno! Come on.